Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo ottavo, parte prima, dove si dimostra coi fatti che la vita di un flick costa 7,50 centesimi. La polizia si trovava comunque in grave difficoltà. I quattro superstiti della banda ispiravano in effetti un tale terrore che nessun informatore, per furbo che fosse, nessuna spia, malgrado l'attrattiva del guadagno, fornì su di loro informazioni di vaglia. Juin si vide ridotto a un lavoro di routine, riprendere l'enorme dossier di denunce, controllare gli indirizzi, confrontare gli indirizzi, pedinare instancabilmente i sospetti in libertà. Così Lorulò, direttore dell'Idée Libre, prima di diventarlo di Della Carlotte, foglio confidenziale di un anticlericalismo viscerale che appare ancora oggi, viveva senza saperlo in libertà vigilata, in compagnia di Jean de Caroui. D'altronde i principali banditi, diffidando di lui, non lo andavano quasi mai a trovare e l'ispettore Sevestre, incaricato dell'inchiesta, cominciava a stancarsi di stare in piedi all'angolo del passage Clichy, tanto più che i suoi calli lo facevano soffrire. Quando infine il 23 aprile avvenne un fatto nuovo. Jean e Lorulò si recarono a braccetto in Place de Châtelet. Pare senza notare di essere seguiti. Li aspettava un giovane bruno, un tipo meridionale dai corti baffi quadrati, che li accompagnò a pranzo in un ristorante del Boulevard de l'Esser. Il volto di questo individuo ricordava qualcosa a Sevestre, ma che cosa? Se ne ricordò quando il trio scomparve nel locale. Aveva passato lunghi momenti allo schedario centrale a studiare i lineamenti di quell'uomo. Era Monnier, alias Simentov, ricercato per furti con scasso nel mezzogiorno, per un assassinio a Orleans e dopo il telegramma «Salute mamma, va bene» trovato da Dieudonné, fortemente sospettato di aver preparato per la banda, verso Hall, i colpi che si erano conclusi a Arnay-le-Duc. Sevestre aveva un bel ignorare anche la partecipazione di Monnier agli affari di Montgeron e di Chantilly. La cattura gli pareva importante, si mordeva tutto eccitato i baffi, i pomelli paonazzi. Avvisò subito Juin, il pedinamento fu rafforzato. Monnier lasciò Lorulò alle 15, andò dal Petit Evry e lo si vide entrare al 63 di Rue de Paris, in un negozio di confezioni, il mercato popolare, specialità, vestiti, saldi. Poi andò da un altro commerciante in saldi, Pierre Cardi, e a Alfortville, e ne uscì in compagnia di una giovane pallida, esile, con cui restò qualche istante teneramente allacciato sul marciapiedi. Poi la lasciò e si recò a Belleville, ove incontrò in vari caffè diverse persone note alla questura. Infine rientrò verso mezzanotte all'hotel della Lozère, 128, Boulevard de Meltil-Montant. Non restava che prenderlo. L'indomani all'alba Vidal, padrone dell'albergo, mentre apriva le persiane delle finestre del pian terreno, vide spuntare 5 ispettori comandati da Juin in persona. Gli misero sotto gli occhi una foto di Meunier. Non ebbe alcuna difficoltà nel riconoscere che quell'uomo aveva preso una camera da lui il giorno prima. Ne disse il numero. I 6 poliziotti salirono al piano indicato più silenziosamente che poterono. Arrivati non fecero complimenti, sfondarono la porta con una spallata e si avventarono su Meunier, che non ebbe nemmeno il tempo di afferrare le 2 Browning poste sul comodino. Portato subito al Quai d'Orfèvres, Meunier cominciò a fare lo spavalto. «Sono fregato, ma ne restano altri, e quelli sapranno difendersi meglio di me». Poi anche lui ammutolì. ma nella tasca interna del vestito gli si trovarono tre lettere. Una era ricevuta di deposito di 1.300 franchi in una banca, evidentemente una parte del bottino. Mounier spiegò che si trattava di economie ammassate per lottare contro le leggi scellerate. Il secondo era un biglietto amoroso firmato Marie, che non conteneva del resto nulla di particolarmente compromettente, era indirizzato a Gauzy. Dimostrava solo che i due uomini erano in rapporti molto amichevoli. Questo Gauzy, Antoine Chipion, era schedato come anarchico. Juin trovò anche una lettera anonima datata 30 gennaio che lo denunciava insieme all'altro commerciante in saldi, Pierre Cardy, quello di Alfortville. Mounier, dopo 3 ore, finì con l'ammettere che era stato impiegato da Gauzy come commesso. Quanto a Cardy, era semplicemente il padrone di Marie Bess, 17enne, la sua fidanzata, autrice del biglietto. Era tubercolotica, non si aveva il diritto di preoccuparla, ne sarebbe morta. Per niente impressionato, Juin decise di andare lui stesso in periferia a mettere in chiaro ogni cosa. Da 23 giorni, cioè da Chantilly, Bonneau faceva il morto sul binario della stazione Saint-Lazare, con la sua parte di bottino in tasca, aveva fissato 2 appuntamenti successivi con Mounier, Raymond, Garnier e Vallée. Raymond non si sa perché mancò al secondo. Da allora i 4 superstiti, fatti più prudenti, diradarono maggiormente i loro incontri, che avevano del resto il solo scopo di non perdere completamente i contatti reciproci. Il mattino del 22, nel corso di un appuntamento in Place de la République, Mounier, proprio prima di essere individuato, aveva proposto a Jules, che non si sentiva più al sicuro nel suo rifugio, di farlo ospitare da Gauzy a Ivry. Jules si sarebbe fatto passare per un rivoluzionario russo perseguitato, di nome Alexander, ad esempio. Inutile rivelare al commerciante la sua vera identità. Anarchico per generosità, forse l'uomo non avrebbe gradito di ospitare un assassino. Quanto a Mounier, avrebbe cercato di raggiungere l'Italia con Marie e là si sarebbero sposati. Avrebbero cercato di realizzare lì il loro sogno, aprire un piccolo negozio di confezioni che avrebbero gestito insieme. Si sa quel che accadde. Gli ideali di Jules erano pantofolai. Aveva intenzione di mettere su un garage, non importa dove, in attesa della liberazione di Judith, di riprendere il suo progetto di motori di aerei, riparare le macchine nel buon odore di benzina, ascoltare rumori di bielle, pistoni, bilancieri, la sua passione. Nell'attesa, ma sì, avrebbe accettato la proposta di Mounier. Il 23, dopo che era passato l'amico, si recò come d'accordo da Gauzy. Gli fece una buona impressione, aveva un'aria franca e onesta. Non era un curioso, semmai un chiacchierone. Raccontò di essere stato portiere di uno stabile situato in una strada dal nome evocatore, Rue de Château de Rentière. Era stato suo fratello Louis, controllore nella Compagnia delle Acque di Nîmes, che gli aveva mandato Mounier, un giovane per cui nutriva evidentemente molta ammirazione. Generoso, buono, sempre pronto a rendersi utile, un po' picchiatello forse, ma gli sarebbe passata con l'età. E poi l'amore tra Marie e lui è di quelli che si leggono nei libri. Non si poteva credere che fosse vero. Ah, Alexander era ben fortunato ad avere amici del genere. Madame Gauzy avrebbe preferito prendere un commesso più giovane, ma le donne non capiscono niente di politica, non è vero? Riguardo al problema dell'alloggio, per quella notte era semplice. Gauzy attualmente era solo, sua moglie era andata a Nizza con i bambini, Germinal, che aveva 4 anni, e Mirelle, che ne aveva 2, a badare ai marmocchi di suo fratello, che erano malati. D'altronde aveva appena mandato un telegramma alla moglie per dirle di tornare. Senza di lei si sentiva un po' sperduto. In fondo Alexander gli avrebbe fatto compagnia, senza contare che era piuttosto contento di poter essere utile a un rivoluzionario russo. Il commerciante condusse quindi Bonnon nel retrobottega. Occorre dire che il negozio era un regalo di Fromentin. Ricordate, il compagno miliardario, un tipo chic, Da 3 anni non c'era di che lamentarsi, gli affari andavano bene. Salirono per una scala stretta, aprirono la porta dell'appartamento situato al primo piano a sinistra con una chiave di cui Gausy diede il duplicato a Bonnot. Attraversarono la camera del commerciante, quella dei bambini, ed arrivarono in una terza stanza dove il perseguitato avrebbe potuto installarsi. Jules ringraziò e rimase solo. Dalla inseparabile borsa estrasse un flacone di tintura e cominciò a tingersi i capelli in nero ebano. L'operazione richiese un'ora intera, poi si sedette sul letto e aprì il solo libro che aveva con sé, Crank Bill di Anatole France. Calava la sera, attraverso le persiane chiuse guardò a lungo i fiori dei meli e dei ciliegi nel giardinetto di periferia. I terreni abbandonati, il sentiero dietro la casa tra due muri a secco e più oltre le fortificazioni e la strada ferrata. Poi si addormentò di un sonno leggero. Alle 6 un rumore lo svegliò. Rimase qualche secondo immobile, le palpebre chiuse, tutti i sensi in allarme. Era Gausy che si alzava. Jules si rilassò. Si vestì in silenzio, fece una toilette sommaria e si passò il pettine tra i capelli, il cui colore sembrò perfetto. Si riconosceva a stento, su via. Tutto andava bene. Le fedeli Browning erano lì. A nessuno sarebbe venuto in mente di cercarlo al Petit Ivry. Perché dunque un indefinibile malessere lo disturbava? Come se qualcuno lo avesse spiato, Jules si accostò, senza far rumore, alla porta e la spalancò. Nessuno. Entrò nella seconda camera. Nessuno. Guardò dalla finestra sul giardino. Tre uomini vestiti da operai alzarono gli occhi vedendolo. Jules balzò indietro. Era troppo tardi. Dovevano averlo visto. Dal lato della strada, peraltro, non vide anima viva, tranne qualche commerciante che apriva le saracinesche. Questo non provava niente. No, decisamente quei tre operai lo preoccupavano. Ebbe un momento di panico. Ritornò indietro a prendere la sua borsa e scese le scale. Si imbatté da basso in Gausy e, se malgrado la sua aria onesta fosse una spia, dopotutto si era visto di peggio. Grazie per l'ospitalità, disse Jules rapidamente. Ah, partite, Monsieur Alexander. D'altronde, dato che mia moglie rientrerà la notte prossima, non avrei potuto tenervi a lungo. Prendete comunque una tazza di caffè? Ho fretta, disse Jules, grazie di tutto. Appena fuori si mise a camminare alla svelta, come se partisse definitivamente. Poi bruscamente si nascose sotto un atrio. Attese un minuto. Nessuna persona sospetta gli passò davanti, dunque probabilmente non era seguito. Per maggior prudenza osservò la strada da una parte e dall'altra, ancora per 2 minuti. Non vide nulla di anormale. Vide Gausy uscire dal negozio con una sporta sotto braccio e dirigersi in direzione opposta. Allora alzò le spalle. Aveva obbedito a un impulso stupido. I tre operai dovevano essere semplicemente dei vicini. E ora, dove andava a nascondersi in attesa della notte? La sola cosa da farsi era di tornare dal commerciante. Con un po' di fortuna l'altro non si sarebbe accorto della sua presenza fino alla sera e allora se la sarebbe data a gambe, anche a costo di maneggiare un po' il revolver per tenerlo tranquillo. Così fece Jules. Ritornò da Gausy. Senza essere visto, aprì le porte, grazie alle chiavi che non aveva restituito perché non gli erano state richieste, chiuse dietro di sé e rioccupò la stanza in cui aveva passato la notte. Il commerciante ritornò 10 minuti dopo. Bonneau ascoltò i rumori della casa che gli sembravano normali. Forse nessuno sarebbe venuto a disturbarlo. Riprese la lettura di Crank Bill al punto in cui l'aveva interrotta. Verso le 9:30 d'improvviso sobbalzò. La porta del negozio era stata aperta con violenza. Scoppi di voci provenivano dal retrobottega. In un balzo si mise ventre a terra con l'orecchio incollato al pavimento. In un attimo capì. Erano Juin e i suoi uomini. Juin, che si era precipitato al Fourville per impadronirsi di Cardi, sospettato di nascondere una parte del bottino di Thiais, Juin, che non avendolo trovato, aveva ripiegato su un simpatizzante anarchico, Colin, e che poi era venuto lì a prendere Gausy, colpevole di aver dato ospitalità a Monnier. Juin non cercava Bonneau. Anche Causì ignorava la presenza del bandito. Il pericolo non era minore in caso di perquisizione. Accompagnato dagli ispettori Colmar, Robert, Sevestre e Hugand, Juin sventolò fin dall'ingresso una fotografia di Monnier. «Conosci questo tizio?» disse rudemente. «Era il mio impiegato, è partito da qualche giorno», disse Causì. La voce di Sevestre giunse allora a Bonneau dal retrobottega. «Capo, venite a vedere, ce n'è un altro. Questo altro era Cardi, venuto a trovare il suo amico. Hogan lo aveva già ammanettato». «Bene», disse Juin, «ci occuperemo di lui più tardi. Questa scala dove porta?» «All'appartamento», disse Causì. «Chi c'è in questo momento?» «Nessuno, ne sei sicuro?» «E questo tizio, lo conosci?» Juin mostrò a Causì una seconda foto. Era di Bonneau. «Non l'ho mai visto», mentì il commerciante. «Bene, Sevestre, Ugard, sorvegliate Cardi. Tu, Causì, passa davanti», disse Juin spingendolo energicamente verso la scala. «Ci accompagnerai di sopra e niente scherzi». Tutto questo era durato solo un minuto. Jules si rialza, corse alla finestra che aveva sempre le imposte chiuse. Troppo tardi, i poliziotti sono già sul pianerottolo. Gausì gira la chiave nella serratura, si sposta per farli passare. Entrarono nella prima stanza. Jules si rannicchia nell'ombra, dietro un tavolo ovale. Ora sono nella stanza dei bambini. Per Dio, il catenaccio! Si era dimenticato di tirarlo. Jules infila rapidamente la mano nella tasca destra della giacca. Juin spinge la porta, resta un momento immobile, si avvicina, seguito da Colmar e da Robert. I suoi occhi si abituano all'oscurità. «Ma è Bonneau!» grida all'improvviso. I tre uomini si gettano su Jules. «Attenzione, tienigli le braccia, è armato!» ansima il vicecapo. I manganelli dei poliziotti si rompono nella lotta, a grandi colpi sordi, le teste urtano sul pavimento, i petti ansimano, il tavolo va in pezzi. Poi tre detonazioni, Juin si abbatte, le braccia in croce, il cranio fracassato, ancora due colpi. Colmar lotta in ginocchio, colpito al petto. «Aiuto, Robert, sono fottuto!» geme. Jules trattiene il respiro, steso contro il corpo di Juin, che lo protegge. «Aiuto, Juin è morto!» urla Robert, in preda al panico, passando il braccio attorno a Colmar, che trascina più in fretta che può verso le scale. Più tardi, nel suo rapporto, scriverà che credeva che Bonneau fosse morto, raggiunto da uno dei suoi proiettili. È difficile berla. Purtuttavia, Jules si rialza, si precipita sul pianerottolo, con una Browning in pugno, alle calcagna dei due uomini. Si imbatte nella vicina di destra, Madame Villelma, che ha scioccamente socchiuso la porta al rumore degli spari. «Levati o ti faccio fuori!» La sospinge nel suo appartamento, chiude la porta, vede la finestra della sala da pranzo, si sporge, corre in camera. «Delle lenzuola, ordina!» «Non ne ho», mormora la brava donna. Jules agita il revolver. La scruta, intravede dietro di lei una pentola piena di minestra sulla cucina economica, il pranzo del marito, senza dubbio. Essa stringe le mani, ha gli stessi capelli di Judith, lui alza le spalle, il suo braccio destro, raggiunto da una manganellata, sanguina, scavalca il parapetto, mette prima un piede e poi l'altro sul cornicione, si attacca alla persiana, afferra la grondaia, salta sul tetto di una stia di conigli, che si macchia di sangue, salta ancora su due tettoie, scavalca un muro, aiutandosi con un palo telegrafico, e si ritrova nel vicolo Bossé, che serpeggia tra i giardinetti. Al suo termine c'è Rouet Grand Corps, e dopo ci sono i terreni abbandonati e le fortificazioni, la libertà. Quando l'ispettore Robert riuscì a convincere i suoi colleghi Sevestre e Hugand, coraggiosi ma non temerari, a risalire, Bonneau è già lontano. Juin giace in una pozza di sangue, non respira più. In un angolo, appeso a un attaccapanni, il cappotto di Bonneau con dentro 200 franchi d'oro. Sul letto la sua famosa borsa. Da basso, Cardi e Gausy sono di un pallore cadaverico. Si corre al commissariato più vicino, si fa venire un'ambulanza che trasporta via Juin e Colmar. All'ospedale di Ivry Si procede all'autopsia del primo, un proiettile ha attraversato la guancia destra, un altro il cervelletto e la carotide, un terzo lo ha raggiunto al polpaccio. Per l'ispettore si teme il peggio, ma i chirurghi Gosset e Desmarais, dopo 3 ore di angoscia, riescono ad estrarre la sola palla che lo ha colpito e che è andata a ficcarsi nel cavo dell'ascella. Colmar se la caverà con una graziosa cicatrice e la Legion d'onore. Nel frattempo la vettura di Xavier Guichard va a parcheggiare vicino alla folla ammassata davanti al mercato popolare. Egli è fuori di sé, come tutti d'altronde, alla Sûreté è convinto che Gauzy ha teso una trappola a Juin, quindi non lo risparmia, è gioco forza a constatare che lo schiaffeggia a più non posso. Assaggerai i pugni della folla, mascalzone. Dice mentre lo colpisce con più forza: ti venderemo la bottega. Creperai di fame e altrettanto tua moglie e i tuoi bambini. Le fotografie del tempo che mostrano Gauzy nel momento in cui viene portato alla Sûreté in compagnia di Cardi provano che è stato seriamente maltrattato. Per dirla in breve, non ha più un aspetto umano. Dopo qualche giorno, le male lingue mormorano che un responsabile della Sûreté, che non era Juin, sapeva che Bonneau era Ivry. Non bisogna spingersi troppo in là. Fatto che ci fossero stati degli screzi tra due uomini non permette in alcun caso di immaginare una tale ignominia. Del resto Guichard si comportò molto bene in tutto questo doloroso affare. Non appena i giornali ebbero diffuso la notizia nelle loro edizioni speciali, una specie di vertigine si impadronì di Parigi. I borghesi battevano i denti dietro le loro porte chiuse, le madri correvano a cercare i bambini a scuola e vietavano loro di giocare per la strada. Poincaré in persona, accompagnato dalla Pen, andò a presentare le sue condoglianze a Madame Juin e felicitarsi per il suo coraggio con Louis Alphonse Colmar, nato il 3 giugno 1861 a Esclé, Oise, promosso eroe nazionale, il cui volto bonario e grassoccio compariva su tutti i giornali. Furono organizzate battute a Ivry, al Petit Ivry, al Kremlin bis 3, con rinforzo di agenti ciclisti e di ispettori, col solo risultato di arrestare alla stazione di Chevaleret due poveri diavoli che furono poi rimessi in libertà. Alle 5 del 24 aprile ci fu un attimo di speranza. Una donna folle di paura venne a dire che aveva visto Bonneau rintanarsi nel fondo di un boschetto del bosco di Vincennes. Si accerchiò il bosco, era un volgare sadico conosciuto da tempo dalla brigata del buon costume. Anche questa volta tutti vedevano dappertutto Bonneau. Un cameriere di caffè l'aveva formalmente riconosciuto nel métro, aveva una ferita alla mano sinistra, era sceso alla stazione Châtelet. L'Occidente lo aveva identificato nel boulevard Massena. Un autista di taxi si era fatto gettare un pugno di pepe negli occhi da due vagabondi che gli avevano chiesto di essere portati nella foresta di Senart e poi erano fuggiti al volante dell'auto, dei complici di Bonneau, evidentemente, che volevano portare in luogo sicuro il loro capo ferito. In breve, la polizia era al tempo stesso schernita e ridicolizzata. Contro il terribile Bonneau aveva mandato a morte uomini armati solo di manganelli. Non si poteva essere più stupidi. Si compiangevano le vittime, ma si deridevano i metodi usati dalla centrale di polizia, la quale si vendicò su Gauzy, che fu accusato di complicità in percosse e ferite a agenti della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni, percosse date nell'intenzione di uccidere. Imputazione che prevede come pena la pena suprema, precisava l'Excelsior. Animato da giusta collera contro questo Gauzy che aveva vilmente attirato il povero Juin in un'imboscata coinvolgendolo nel massacro. Era andare un po' troppo oltre. Anime buone si commossero, articoli vendicativi apparvero nel giornale di sinistra Gil Blas per la penna di Severin e in quello di destra L'Aurore, foglio realista e cattolico, diretto da Paul de Cassignac. Per difendere il suo imprescindibile, il più nobile dei diritti, il diritto di asilo. fu organizzata una petizione in favore di Gausy, fu firmata dal fiore della Parigi liberale del 1912, Anatole France, Marcel Sembat, Gustave Hervé, Lugnet Poët, Laurent Taylade, Poulot. La polizia accusò il colpo e tacque. Il 25 aprile una conferenza al vertice aveva riunito la crema della prefettura. Amard, capo del servizio delle ricerche, Xavier Guichard, capo della Sûreté, Gilbert, giudice della procura, Sébille, primo controllore della Sûreté, generale, Fèvre, commissario di divisione della brigata mobile. Dopo 2 ore di intense meditazioni era stata varata l'idea luminosa di organizzare una gigantesca retata. Nel massimo segreto vennero convocati al Quai d'Orfèvre una decina di ispettori, scelti con cura. La loro partenza fu un autentico momento di eroismo. Si tolsero loro i manganelli e per la prima volta vennero dotati di revolver. Le loro mogli ebbero il permesso di venire a salutarli. I superiori strinsero loro calorosamente le mani con gli occhi un po' rossi. Poi partirono per una destinazione ignota. Parallelamente veniva organizzata con molto fragore una campagna pubblicitaria sul mestiere nobile, pericoloso, ingrato e misconosciuto del poliziotto. Rispondendo con umorismo involontario alla frase pronunciata da Raymond nel giorno della cattura, Le Matin dava anche delle precisazioni sugli stipendi. Juin, vice capo, guadagnava 7.000 franchi all'anno. Il bravo Colmar, ispettore principale, 4.200, un semplice poliziotto da 6 a 8 franchi al giorno. Date le tariffe, non bisognava supporre un senso del dovere eccezionale in queste brave persone che affrontavano le pallottole della banda Bonneau? Malgrado tanta scena, la retata miracolosa non fruttò che persone di poco conto. Quando fu fatta la cernita tra i sospetti, si tennero sotto chiave solo l'Orulò, ma non a lungo. La povera Marie Bessy, fidanzata di Monnier, Croisade Fleury, 26 anni, il figlio di famiglia traviato, commissionario senza ufficio né clienti e contabilità, che aveva trattato una parte dei titoli rubati a Thiais, ricettato statuette d'avorio, rubate da Caroui a Saint-Germain-en-Laye, altre comparse, Aubos, Maurice, André. Quanto a Bonneau, era sempre uccel di bosco. Libri ribelli. Libri ribelli.